GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. L'Europa torna a bacchettare l'Italia per la giustizia. A Bruxelles è stato presentato un monitoraggio sul sistema giudiziario e la commissaria Reding si inserisce anche nelle tensioni nostrane tra politica e giustizia. Giù le mani dei giudici, proclama senza troppi giri di parole il commissario europeo Viviane Reding, secondo cui se si vuole che la magistratura sia davvero indipendente bisogna lasciarla lavorare. Da una parte l'eterna inefficienza e lentezza dei processi, dall'altra l'ormai ventennale conflitto tra politica e giustizia che nel 2002 portò in Italia per un'ispezione pure l'inviato dell'ONU sull'indipendenza delle toghe. Sono soprattutto questi i mali che fanno del nostro paese un sorvegliato speciale alla voce giustizia, che ha un impatto molto negativo sugli investimenti, ricorda la commissaria, riconoscendo però il lavoro fin qui fatto verso l'efficienza e sollecitandone la prosecuzione. 500 giorni in media servono per risolvere cause civili e commerciali, quelle che più interessano gli investitori, quelle che fanno perdere al nostro paese, secondo più calcoli, circa l'1% del PIL. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Si cercano nuove regole per il marchio registrato comunitario. L'obiettivo è migliorare le condizioni per fare innovazione, abbassare i costi, semplificare i processi. Anna Marino ha sentito Patrizia Toia, vicepresidente Commissione per l'Industria e la Ricerca al Parlamento europeo. Sono un pacchetto di regolamenti che ha preparato la Commissione europea, sia la revisione della direttiva del 1989, sia il regolamento del 94 sul marchio comunitario, sia anche il regolamento della Commissione sulle tasse da pagare all'UAMI. Se queste tre misure vanno nel senso davvero di, primo, semplificare, secondo, rendere più diffusa il ricorso ai marchi, più facile, più accessibile, rinnovabile, anche perché oggi su molti prodotti nuovi nasce l'esigenza del marchio per sicurezza, identificazione, nell'ambito di tutta un'iniziativa dell'Europa che vuole rilanciare tutto il mercato interno, dare ossigeno, diciamo, e spinta al mercato interno, allora è positiva. Se si tratta di una revisione che vada a appesantire, no. Ma siccome sarà senz'altro nel primo senso, la guardo con favore e spero che serva appunto alle imprese, soprattutto alle imprese innovative. L'Europa a 27 sarà presto a 28, luce verde di Bruxelles all'adesione croata nell'Unione Europea. Via libera definitivo della Commissione europea all'ingresso della Croazia. Zagabria potrà diventare il 28esimo paese dell'Unione europea il 1 luglio, come previsto. Bruxelles ha adottato ieri l'ultimo report di monitoraggio sulla preparazione del paese balcanico. Tutte e 10 le azioni prioritarie sono state adempiute, soprattutto nei settori del consolidamento dello Stato di diritto e della giustizia, nonché della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Il grado di preparazione della Croazia, pur non essendo ancora perfetto, consentirà al paese di non dover sottostare ad alcuna verifica ex post, così come accaduto per Romania e Bulgaria, tuttora escluse dall'area Schengen e già oggetto di trattamenti speciali dopo il loro ingresso in Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto per GR Europa. Roberto Scaltritti in regia, Gigi Donelli al microfono. L'appuntamento domani, poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.